gruppo, Attenta, cuffetta, cosa ci facendo c'è? Eia! Mi ho autocostruito! un'avventurina ho buscato e ho fatto un po' un vecchio, però pompa solo aria fredda, eh? È vero! A 12 volts! Ti va del ubreco! Se vuoi dire che devi entrare nella mia email, la aggiungi rinnova office tra pagamento e dove? Su cosa? Al computer, configura pagamento, guadagna contanti, gestisci. C'è la mente di balle. Cosa devi pagare? L'antivirus? No, non mi fa entrare su. Vediamo un po', aspetta. Gianni Maria, marmitto sì. Sono riuscito, va, vediamo un po'. Ieri a me invece non mi faceva entrare, neanche. Però era da loro, stavano facendo dei lavori sul computer. Internet e poi mi ha fatto entrare. Sì, la Vodafone c'erano problemi. Più di un'ora ha già bruciato, ma sta nel mio capo. Dopo telefonate mi hanno detto che stavano terminando dei lavori. Va bene. E poi dopo di un'oretta e mezza ho provato e già funzionava. Infatti c'era un po' lento ancora. La dici, sono con Magendi, no, che tutti i volti che andò a centro computer, ho visto, ho messo i due antivirus, a VG, ma va a fanculo. Grazie, cosa vuoi ti dica? C'è stato un tipo blackout. E allora, se mi rompo il cazzo che mi dovete mi dire pure internet, cosa mi nasce? Anche a Giuseppe, ieri, stamattina pure a me figliura. No, ma la nipote. La nipote, non funzionava. No, adesso sto cercando di... come si dice, di mettere la password di My Vodafone. Però non mi apre le mail, un bel lento come connessione. Per carità, va. La via che è veloce, io c'avevo Timmy, si era già mandato da chi su paese, mi hanno fatto pagare pure la mora perché non era scaduto di 2 anni, la giustizia me la paga lo stesso, ma mi iniziti da culo, da 31 euro c'era una stata 50, apri la voce, ma c'è mi di cervello sì, e mi ho messo Vodafone. E pago 31 euro al mese, ogni 2 mesi 63 euro, là. Sì, io mi ha cagato la parte, io posso mi fa entrare. Capito mi hai? Io ho capito, sono un attimo, vai su Vodafone, vai su voda.it. Non ti ho copiato che Paletta mi stava dicendo cosa hai detto? Aspetta. Ehi, alla di pollo. Ti aiuto Gigi. No, che mi devo sbloccare il My Vodafone, aspetta. Vabbè, se non entra nessuno, ma se non computer mi guardo i documentari, caccia al cinghiale. Chi è che vuole entrare? Un'ora sì, entra, no entri. Bobo! Bello bene! Bobo! Luca ha mettendo un computer che si è impallato! Davvero! E allora? Ma non è che te l'hai mangiato tu, non sto a ti sagrabba che non ruccendi! Pitrea. E alle la Ruscelli, Luca. Ah, non è che l'hai arrucita a turno, lo dinno. Ma che da grappa che la princella in nata la macchina. E allora? E allora? Ma di questo mi devi pure passare la Giulietta. E non dirà nessuno però, se non si credi che... E allora la giubbetta russa, la giubbetta in faccia, così impara. Era convinta era, non hai visto brinchene da un capo all'altro. Tutta la macchina va graffiato. E allora? E tu l'hai fatta pure, così è? E allora, la giubbettata e la gambetta in due. E un capra di bocce, un cancello a trofeo. Va bene, ma ne ce l'hai con l'altro, perché e di chi l'hai contato giù. Ma ce l'hai con l'altro, ce l'hai rimangiato l'altro. E allora, buonanotte, Aida. Uia, con un barbecchio nuovo che faccia, non sai cosa è, un treno. La Giulia è inaugurato. Bicchetti, panzetta, melinzani, bevaroni. E trullalà! Di chi c'è a Figredo? Di chi c'è a Figredo? Ma lo capretto no! Lo capretto l'abbiamo fatto pure in campagna, ma me l'abbiamo fatto pagare un paio d'anni fa al mercato, i chivi, al mercato. A chi non aveva niente, mi ha detto grabbito, 120 euro me l'ha fatto pagare, mi sono grabbito la buccia. Ehi, vai vai. Ehi, ma non è così là, un pesciù, bonareggio, bello saporito, croccantello. Ehi, allora, mica no. E allora, chi è dito col pollo, ali di pollo? Beh, di là di pollo io vi posso immaginare, vi posso credere. Ma di chi su qua presto, mi pare una cosa strana, Ehi, sta su mandare un passato e mi ha detto se mi comparavo l'uovi. Ehi, di la forza, dillo. A via, di la forza. Chissà da che paese ne hai cavato che sta autografia. Ehi, cosa è maniato, ci sono così bene, sto cementato. Tutto... Ehi, dai vero, già. La ringa veniva già trattata, vinta il docile, va via. Davvero? E allora, e ci avessi per Luca. Luca, beh, è entrato su internet. Come hai? Paolo, buonasera. Ma dove mi senti? Ma già vi credi? Chissà con tu capretto in tiro, in trio. Ah, in trio. Beh, con appena lì, con un poco di fuoco. E di fantasia magari, beh. Anche le fantasie vanno bene, ugualmente ogni tanto, va. Già vanno bene. Altrimenti. Domenica, Aragosta. Ehi, arrabbiato prefiro Aragosta. Ma evidentemente tu la mangi ogni moccia di babba. Invece se l'hai mangiata come ce la mangio io, hai visto che non l'avevi desiderata così. Mai. E una mangio quarantenni. Calmo, Stai calmo, di lasciare queste cose, non si crede davvero. Cazzo. Va bene, l'immaginazione già c'è. Ehi. Fai bene, fai bene. Un metro e mezzo d'antenna. Se no non mi piace, cazzo. Ah, che pure la testa è fuori di mezzo, va al lume. Ehi, la saluti. A chi Luca rimagna la cosa di gambaroni da mezzo chilo l'uno, diglielo Luca, cosa era, di scarafaggi? Alarelle. Allora lo vedi che già ne so io, queste cose. Eia. E Luca Flippero ancora lavorando sta. E boh, dirà lui. discorso. E la dobbiamo imparare in campagna, ancora, che allora è lungo questo tramaggio. Ahia, si deve fare da chi da chetra. Luca, metti in presario, vai, a comunità è di biglia. Vabbè, peccaggio, va, va, peccaggio. Se non ti brucia, rifatti, riprazzi, che è meglio essere tranquillo. Ma lo andava in occhi da caro maniari, se sta pannuta in occhi, in burazzo. Luca, facendosi. Sto cercando di recuperarmi le mail del telefono, aspetta. Calda ce ne c'è un marito a te. Ehi, cazzo, stai che mi ha zaccato tutto. Tutto ha zaccato, ha spiccato di me, ma hai acceso la ventola. E ancora è accesa, cazzo. E sto com'è, tranquillo, pacifico, è un freco. È un freco che l'ha fatto male. Ma chi ha minimo, si sa di me. Ah, ma intendo, la televisione. E fammi vedere un cico. No, io ma ho autocostruito una ventolina con un phon vecchio. Ne ha tutti invitato, ne ha dimontato, ho imparato la ventola e mi ho fatto il phon all'aria fredda. E poco bomba. È una piscina abbigliata a dirai. No, oggi non so piscina, non una piagana. Però hai fatto vedere, lo sto portando qui a Rosi, no, non me l'hai fatta vedere, mi l'hai fatto vedere un pezzaretto. Ah, che l'ha segnata pure di Siri Fiorellini. Tanta di me, di ieri, l'ho fatta vedere tutta e completa. Era pure di Siri belli piatti, ti rendono i riposi che ci mezzo acciaccati. E i gerani quelli mezzo andati e danno l'Italia che se ne rivoca, se no è brutta lì in terra, vabbè, che ne parano tutti i fusi. Allora è da che ci sono fusi ne ricciaccia, con la forbice, anche le foglie quelle mezzo secche. Gio Maria, non te l'ha fatta vedere se il timmia che viene a furi. Avvino me, per carità, che ha fermato che. Graziano, Graziano. Come ti sì che l'ho mandata la fotografia, un pezzo ne è uscito. L'altra è di spalle, cosa ti mando? La fotografia è di spalle. No, la mamma ha fatto entrare, va, a posto. Mi avanti, ti la mando, Luca. Però è un po' lento questo computer, un bel po'. Accelerai già vino allora tu, accelerai già vino. Ehi Giovanni, vecchiotto eh. Ehi allora di vino mi sono comprato già dopo. Uia, la giornata gana, boh. Giovanni metti la giomandata, vai da dire, è di spalle. E poi c'è l'altra che ci vede un pezzo. Poi per il barbecue. Luca l'hai vista di spalle. E beh, perché me l'hai mandata da Reggio, facciamo andare da Nazzi. A chi l'hai girata, mi l'ha giudito ed era per di cosa, no? Chissà che si vede un pezzo e la mondendi. E là c'è la burenne, la rosa, e la mascia. Tu l'hai mirata all'improvviso la fotografia, il trapediente così, capito? Il trapediente c'è la fotografia, lo so anch'io. Che facciate si mandare a Darazzi, non a Dareggio, Luca! Non vuoi finire, ecco, è di spalle, non ne ho altre! Va bene, va bene! Già va bene, va bene! A fine, già va bene! Avanti ne mando un'altra, è zitta! Aspetta chicca, preco preco Oh, vedi, sto mangiando un calcio della madosca e la preco, meglio così. Fuori di un cappotto, alla buona cappellina di custoni. Sta bene, bene, io sono con il slippino, dentro casa sta benissimo. E beh, ma e dopo mi hanno venuto arrossendo però, grazie. E lì l'ha fatto quando l'ho piazzato. Quando l'ho comprato, poi me l'ho piazzato, non aveva ancora l'uvuglio dentro. L'ha già provato l'aggio, è poco una bomba, ti mando di là su i saggi lampati. Qua sono ben grande. Ciao Mari! Ciao Ru! Ma ti immaginate, gatta, mi ha mandato la fotografia a tua, a Taretto, è ricinata, e poi a fare la fotografia da avanti, non da Taretto. A chi stanno di capo? No, è canuno. Ciao Luca, ciao Onore. No, ciao Rossi, aspetta. Ciao Lore, ciao Ro. Ciao, ma come stai, Ro? Già sto bene, Lore, già sto bene, un po' di caldo oggi, ma adesso c'è un pochettino già. Anche qui mi c'è la casa, ma sei mezzo l'accesso, se si sa bene cameretta. Quello ti sa di bene, Lore. A chi è bene, chitarrista va, quindi. Arumacu, un po' gareddu. Mamma mia, rugazzo di oggi. Bobo. Ah, ciao Paolè, Maria è stata in bagno a lavarsi. L'ho salutata, Lu. Oggi ha fatto un bel di caldo, la massa viene scendo, adesso si sta bene, io sono in terrazza adesso, dall'altra parte. Guarda, non ti dico che c'è freddo quasi. L'aria è fresca fresca, bello, bello bello. E via, beh, io non credo io, Lu. Ciao Mari, te lo dizenni. Arugunocci, è morto Lu, fratello di visto di feno. Non ho capito, Lu. Ho detto, è morto il fratello, quello di feno. Dove è morto? Ma che si sono lati dossi? Magari il più manno. No, due bambini aveva. No, dico il più grande, quale, che come si chiama? Non te lo so dire, no. E quando è morto, Paolè? È morto ieri, domani ci sono i funerali. Ma non è che è Luca, no, per caso, Piras? Piras, mi hanno detto, sì. Di tristezza, un mito, infarto, 48 anni mi pare. Che dice, tanti anni fa lavorava di lì al benzinaio della Budibusi. Ah, lavorava al benzinaio di Viale Portotto, ma di Via Pascoli anni fa. Ah, no, io non lo conosco. La mamma dice che abita di lì alle case blu. Non lo so poi dove abita la mamma, boh. Mi stanno dicendo, un'amica mia mi ha telefonato che siccome è parente di quella che apre la sera il ballo di lì vicino alla piscina, mi capito? Sì, la gente c'ha pure la foto, ve la mando a... gliela mando a Graziano, così lo vedi, aspetta. Così è Gio Mari, oi, a Bobo. Gio Mari. Sì, Biro. Sentito è quello che stavo dicendo. Sì, da Zeno. Già abbiamo capito chi è. Ha capito. Telefonato per il ballo che non apre stasera. Di lì vicino alla piscina, perché Anna sono parenti, capito? Domenica è la mamma. Ah? Sì, di domenica è. Di domenica. No, si chiama signora Lina. Sai che non mi ricordo, ci ricordiamo Lu. Neanche io, la verità, perché ho telefonato stasera, perché domani notte siamo a cena, finiamo l'ultimo, capito, il ballo, cioè ci sarà anche Patrizia. E quindi mi hanno telefonato, dice morto il nipote di Anna, questa di Fenumi. A te ne ricordi quello che era morto, che stava piazzando il coso della tè dolce? Della Tedolce, che il padre faceva la festa, era operaio che è morto, e si chiama Domenica la mamma di questa. No, a me mi ha detto signora Lina, boh, abita all'ultima palazzina delle case blu. Ma forse Lorenzo riconosceva, boh. Ma no, beh, io non mi ricordo, non mi ricordo, boh. Purtroppo è così già. ma così all'improvviso è morto. Eia, l'ha trovato in casa sua morto, coricato. La moglie non c'era. Ma c'è l'ora adesso? Ah, dice che è entrata la mamma a chiamarlo, convinta che era dormito e invece era morto. Succedono queste cose anche così, per fratello di Giuseppe, la buon'anima, Mattessi. Era coccato, le domandarono la mamma, è andata dai cittadini, l'ha ciappato molto, l'ha ciappato. E mi ha detto, usato, se ne è fissato di andare a cucarsi e le ha parato l'infarto fulminante. Ma Cuba ha detto, la moglie è Gesù, lo so quando è caduto in terra, a quando arrivi a fare della sopra era già morto. E c'era il 118 che c'era la sede di fronte proprio a casa dove era lui. Sono entrati subito, non c'era niente da fare. Quando è fulminante è di grima e bu. Cazzo, la vita com'è. Purtroppo, vedi, nemmeno ti immagino le cose che succedono, via, per carità. Purtroppo, via, per carità, cazzo. Via. Cazzo, uno esce da casa. Ero vinto a rabbiù, ma tu te ne immagini, è capitato anche queste cose, grazie. E cazzo di capitati, esci tranquillo e farò lo saggettore. Cazzo devi pure fuori, mica da visa. Chi ti vedo tranquillo e adesso sto salendo a coricarmi, chiudo il computer, la serrata viene pisata in piedi e si è sparata in terra. Ma Cuba ha inteso la moglie, nulla, secco un colpo, una fusilata, non ti dà il tempo manco di dimba. Sei caduto. Oh, yeah. Ma non vi facciamo mai queste cose, ti piace, però non vi facciamo i bisognati, se no si per la malinconia. Quando arrivi, ma... o ne fa vedi o non ne fa vedi, a me quando arrivi, ma c'è un altro mondo. Aspetta, grazie che le mando a pigliare la bacilla. E io, Luca, e me, a usare questa fotografia. Sì, la sua cosa che è, zitta. L'hanno messa, non mi ricordo chi. E boh. Vabbè, magari già lo conosco io, perché quelli che lavoravano al rifornitore all'incirca li conoscevo quasi tutti. Che lavorava... grazie, non mi ricordo chi l'aveva messo. Vabbè, ma intanto presso a poco li conoscevo tutti io, quelli che lavoravano sia nel rifornitore. Io ci ho lavorato 5 anni e ci conoscevamo tutti, perché... quando facevano le riunioni giù a Porto Torres, all'Agipi, dovevamo andare tutti, capito? Dunque, più o meno ci conoscevamo tutti. E poi, bella poi! Hanno arrestato una ragazza lì a Santa Maria di Pisa per spaccio di droga. Hanno arrestato? Sì, ya. E come si chiama? Tiziana Puletta. Come Tiziana? Puletta. Tiziana Puletta. E ci ha visto lo zappo lì. Paoli. E abita vicino a quell'altro grattacielo, Luca. Cosa? Che abita vicino all'altro grattacielo, non questo di fronte a Tenno. All'altro, quello che c'è dietro l'altro. Io per carità è proprio. E anche tanto pensi che bisogna stare due dietro Renocchi, ma non è denni ni no, ma hai compreso, non è denni ni no. se lo fai tu ti sarra, ne non ti devo cagare più. Francina, la Sari ha fatto vedere 75, tutti erano in attesa di pena capitale, tutti decapitati. Sarebbe in fila chi passava con una specie di spada enorme e ne era andato i gambi. Già lo so. Avevi visto che aveva il bus sulla legge Burinocchi? Chi? Non veniva in casa di questi come ti visto nell'altro. Chi se no niente cranio e fatene bene hai visto il tunguo che tubacco che lancia le razze ha fatto del capitale lo zio che l'ho visto aspetta un attimino ok allora aspetta un attimo adesso non lo trovo più vediamo. Perché non ha obbedito ai suoi ordini? Cazzo, mi l'ha fatto tagliare un capo, a Ruzio. Oh. E Ninja non l'hai vista, adesso hanno messo la legge a fare la lezione chimica a chi violenta, a chi violenta. Ti decapiteggiali. E beh, i parigi senti, grazie. Salà! Ehi! Tuffo, dormito ti sei. Ciao, grazie. Io ho chiuso, ciao. Ciao anche a Gio Maria, ciao. Tuffo! Si magna! Si cacciucci! Pollo, alette di pollo alla cacciatora, Milope, quello che mangi tu. E allora, si può assomigliare, vai, fine, vai. Ma dimmi una cosa, ma che barbecue, la vernice, quando veniva voi? E l'ho già acceso il fuoco, oggi gli ha fatto panzetta, capocollo, mirizzani, bevaroni, lusimino. Un rosimino e fate il suo barbecue, vai, vai, che si scioglie. Vai, vabbè, quella fotografia che ti ho mandato è quando l'ho piazzato, mi. Ma la vernice c'è ancora, la vè ancora. Ah, io con quel barbecue ci mangio solo io, ci mangio e finita. E allora abbiamo mangiato l'altra sera, quando è abbattì l'abbiamo acceso un po'. E abbatti ieri, erami in cinque, allora cosa che ne ha sfornato. Ma fine, in cinque, fine. Allora ti si può cucinare a mezzodì e finito all'otto. E allora è sicuro, non sai se come ti hai attrezzato, faccio un pezzo di tavola di sotto a misura, di cantieri. E a mette selezionato e poi sotto metto quello l'accendifuoco e il carbone lo metto sopra quando accendo la legna e lo culubici culugoccio e lungo e allora Luca è uscito era tutta la sera e Loghi e va uscito. E oggi è venerdì. Un giretto al circolo se lo devi fare. Pizza. Davvero? No, io c'ho aletti di pollo in cassarola con sioda, la cacciatora proprio, per profumo. Ma cacciatora, il peperone messo ce l'hai. E allora, tutto bello condito, si strugge con di zen. C'è anche il preparato per fare gli arrosti, rosmarino, tutto misciato. La carabina messa ce l'hai? E allora, no, quelle ce l'ho qua, due, e una ve la dico, me la darete in altro armadio, in pensione. Ma se era cacciatore avevo pure così. E allora, ieri sono andata a caccia di cinghiali, due cinghiali vedani. Oh, li ha portati a casa? No, non ci sono fatti pigliare. Ma Haiti. Capite, non che devi andare a Roma invece di ne venire dentro casa, non l'hai visto il telegiornale, a rimare. Ti cinghiali a Roma, in città. Prendi dai pesi, le ricaccioletti della mozzezza. Sono pericolosi, sono. Ma lì ci vuole. Ci vuole libera caccia. Ma ci vengo un cinghiale no che sono con Varenni. È impresso a burro, non mi sicuro, hai compreso. Ha fatto vedere nei giardini pubblici, questo signore stava passeggiando con il cagnolino e lo cinghiale l'ha visto e l'era attaccato e l'ha fatto vedere fuggendo in pararugano, adesso si voleva mangiare un cucciuccio, chi su bocco, non l'hai visto? Luca! L'hai visto quel signore fuggendo con un cucciuccio e lo cinghiale ha preso, bisciglietti tu? Pericolosi sono, se ti prende con le zanne... Mica lo sommi, io vado in campagna un poco, cosa sarà lasciato? Un metro e mezzo alto, ma grosso, con le zanne girate. Sta con tuo colpo di mozzichina, la buona di mezz'ora, la lasciata 3 metri in aria, se si dà. 5 metri ci la scava l'avventata proprio, l'ha alzata col muso e ce l'ha lanciata. Sono pericolosi, sono. Intanto non riescono a debellarli tutti, venne troppi, perché poi affigliano, venne troppi. Sì, ha detto non so quanto ne fate una cucciolata, tutti i volti ti fate i bocchetti, e mi pare ha detto 7-8. E poi non è che li cacciano, secondo me, per debellarli più che per mangiarli. No, hanno messo andare a ucciderli perché ce ne sono troppi. Ma un bevine, l'abbiamo fatto vedere pure i gabbiani, sono diventati i padroni di Roma, d'ogni gabbiano da spavento, si attaccano pure, si andano a rubirli a mandarsi giù. Ci si butturecciare. Perché vanno a mangiare la mondezza dei cassonetti che non svuotano mai per forza. E Napoli la stessa cosa. Anche qua ci sono comunque, non ti credere. Però le cornacchie mala sorte li danno mattana, E a chi no che non lo vedo, bisogna ricurrarci. Ve ne so 3 o 4 fissi no che vale lunedì notte. E la roba che non si muove né mai. Romanzano, un bel di voce, Romanzano, vieni 2, 3, 4 gabbiani e andano a piccolissimi qualche pezzo di pane e le curracce le attaccano, devi vedere i combattimenti aerei che fanno in aria, di ogni piccolità delle curracce, poi le attaccano a due, a un gabbiano, intendo un gabbiano gli azzicchirri, si fa di ripetere. Sì. Ma prima, perché prima andavano nelle discariche, capito? Le discariche erano sempre piene di gabbiani, sempre. Mica lo so, quando salivo a Usino col camion, a scaricare il camion, quando lavoravo in comune, più di uno mi cazzicavo con le ruote di un camion, se mi attaccavano tutti innanzi a un camion. In mente era io cammini venne in retromarcia, se ne buoni a buru sotto, ma li arrivati di gingomma e da bene duravano la G, zoppi barono cribavano. E magari perché c'era la mondezza e passavo sulla mondezza. Poi aprivo a scaricare, dovevi vedere quanti gabbiani, da paura. Vedi, quelli non li eliminano purtroppo. Dovrebbero insomma eliminarne un po', perché comunque anche qui li portano pulci, portano come le cornacche, come i colombi, portano pulci, portano malattie. E se no quando andava a Montecuti, a Parsase Vugo, a caricare la Mondezza, con un Fiat a 6,50 con due ragazze andavo, non era ribaltabile. Fabiani, mi dono e cura amara. Dovevi dire i cinghiali che mi bisciglieni già da giù, no, perché era su una collina molto in alto. Tutta la strada dei cinghiali, ma dove ti venivano correndo tutti quelli, tutti attaccati da rugano. Se li passavano in buco sotto le ruote e ogni tanto intendi budubum, a chi era niente, no. Quando mi fermavo, alzata dove uscivo per aprire i ganci delle sponde, dal finestrino dritto al rugascione, anche era visto il camion, e con la barra aprivo i ganci e la sponda di dietro, e le altre due sponde. E poi rampato. E Gio Mario, anche sentito, grazie. Stasera l'ho sentito, poi non so cosa doveva fare, non l'ho più sentito. Luca è uscito e mi stavo guardando la TV, quel programma delle case che restaurano in America. E niente, mi aveva finito, era acceso questo qua in cucina. Ma io mi ho già a focus, cioè gli incidenti aerei ci sono. Ah no, e adesso no, non me lo sto guardando, sta cucinando Paoletta quel pollo nel tegame, tanto siamo soli soletti, oggi siamo sposini. Ehi, fai da bravo, mi hai controllato l'ossigeno, lo sai, no? Com'è? Ed è pronto lo bambolone, con un tubo. Stanotte a Canale 5 c'è un bel film, mi, di guerra. Storia vera. Me lo guarderò. Se è bello. Se è bello come te, allora non me lo guardo. Alle 9:15 inizia, così vera, mi pare che stanotte. Stanotte quel film, beh. E dopo più tardi alle 9:15 inizia il canale 5, appena finisce Paperissima. E che sta dando più nulla, io guardo Cielo, guardo tutti questi canali, anche a canale 5, rete 4, non è più nulla. Invece guardi i giri lì, almeno c'è qualcosa, tra il 21 e il 26. Mi sa della la Giacesu e mi le Baldeni Alfa, quel programma dell'Alaska, però sono puntate già date nella giudata, dice ma va a fancuffia. Mi ho guardato un altro canale, c'erano due telefilm belli, e mi ho guardato due telefilm tedeschi e di polizia però. Mi ho guardato quei due telefilm e la prima ha detto da chi era come se nuota, ha detto oh, boh, basta. E niente, e lo sono più nuda in questo televisore. Anche io guardo su Cielo, su Paramount, come si chiama, su quel canale lì. Insomma, molte volte danno sempre gli stessi film. Però tra 20 e 26 almeno c'è sempre qualcosa, capito? Al 20 mi guardo parecchi film, molte volte la sera, la notte. Ci sono un bel film che non ha più visto buro, quelli del canale 20. Poi c'è Steve Seagal, ho visto i film così, di combattimenti, quella roba lì. Alle notti mi ho guardato, uno lì veniva uno di cinesi e uno era irlandese, mi pare, ed era di samurai. No, io stavo guardando Three Justice, quello con Steven Seagal, dove fa il poliziotto. No, quello l'avevo già visto, no, mi ho guardato quello del canale 20, ed era di samurai, ed era bello, mi è finito brutaggio. Fino alle 2, le 3 ci sono sempre qualcosa in televisione, in quei canali. E l'altro, tutti gli attori a bisogno sono morendi. Ma cosa, mi Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, ogni tanto buono in un film, se no sono sempre rimasti i gossi. L'altro di vera, un film a Rai 3, No, a Rai 4. A Giulia di Rai Italia 1. Lo stesso film che c'era il giorno prima. Ha detto, ma chi sono macchi? Deve esserci rimasto né uno con l'altro. Questo che paga il rogano non è burro. Che si arrai da voi non ti faccio vedere nulla. Allora, io difficilmente che la guardo la Rai, ma raro proprio. Se no parto da Rete 4 in su, ma solitamente dal 20 al 26. Vabbè, poi 52, 56, documentari, quelle robe lì. Anche io quelle cose lì, i documentari me le guardo. Anche io, no, ma la Rai guardo solo se c'è qualche film che non ho visto. Se no per lo più sono tutti i film che ha già visto. Questo di che c'è stanotte a Canale 5 mi sembra che non l'ho visto. Ho visto un po' uno spezzone la pubblicità. Un attimo, grazie, dai, che metto a caricare che si sta spegnendo. Intanto lo chiudo adesso, mi va pure il sorriso. Ci sentiamo domani, ciao! Buonasera, altrettanto! Oh, parlo.